purtroppo è consolidarsi dei cambiamenti climatici da un lato, è un territorio oggettivamente non pronto, purtroppo fa vedere questo, e sono tutte piccole, sono tutti segnali che ci dimostrano che dobbiamo cambiare passo, dobbiamo cambiare mentalità nella gestione del territorio, nelle regole anche di gestione del territorio a 360 gradi, perché diversamente purtroppo ci troviamo di fronte non solo a contare dei danni, ma purtroppo, ahimè, anche delle vite umane, perché in quei due episodi a settimana del 2022 purtroppo abbiamo avuto anche della perdita di vite umane, che sono le uniche cose che non si riescono a recuperare, mentre i danni materiali, seppur li ripaghiamo più cari rispetto a quello del prevenire, sicuramente riusciamo a recuperarli. Però credo che oggi il Paese si trova di fronte a una scelta di decidere come spendere delle risorse importanti, non solo per il ripristino, ma soprattutto per la prevenzione, perché la prevenzione costa dalle 5 alle 7 volte in meno rispetto alle emergenze. Quindi dovrebbe diventare questa la priorità del Paese? Noi riteniamo che la prima opera pubblica che oggi il Paese ha bisogno sia quella di un'opera di manutenzione ordinaria e straordinaria del reticolo primario, ma anche del reticolo secondario di bonifica, perché da un lato i cambiamenti climatici, ma anche e soprattutto il cambio della morfologia del nostro territorio e soprattutto il consumo di suolo che abbiamo avuto negli ultimi 30 anni rendono questo territorio di fronte ai cambiamenti climatici molto più vulnerabile a fenomeni come quelli che sono accaduti negli ultimi giorni e nell'ultimo mese di maggio in Emilia Romagna, ma che però vediamo che non sono avvenuti solo in Emilia Romagna. Se ricordiamo in settembre le Marche, se ci ricordiamo la Campania, la Sicilia, tutto il territorio nazionale dal nord al sud è stato investito da fenomeni calamitosi. Questo è chiaro che ci deve fare accelerare su quel percorso di messa in sicurezza del territorio, con un piano straordinario di manutenzione, ordinario e straordinario, e poi delle opere pubbliche. Per noi la più grande opera pubblica che ha bisogno il Paese, anche per far fronte non solo al dissesto idrogeologico, ma anche all'altra faccia della stessa medaglia, che sono i cambiamenti climatici e della siccità, un piano invasi che mette in sicurezza i territori, che crea occupazione e che soprattutto non lasci senza nessuno, senza acqua, come purtroppo nel 2022 abbiamo dovuto vedere. Quindi insomma gli invasi potrebbero essere una prima risposta a entrambi i fenomeni, cioè da un lato la siccità, dall'altro l'eccessiva acqua concentrata in poco tempo. Invasi, laghetti, casse di laminazione, sono tutte opere che aiutano ad adattarsi a questi cambiamenti climatici che cambiano quella che è la piovosità del nostro territorio e soprattutto la caduta della pioggia nel nostro territorio, perché guardate che il dato è molto chiaro, non è vero, è in parte vero, che i cambiamenti climatici ridurranno la piovosità del territorio, quello che stanno dicendo è che ne cambiano i volumi e nelle tempistiche distribuite nel tempo. L'esempio di maggio del 2023 in Emilia Romagna sono cadute esattamente l'80% delle piogge che sono cadute in tutto l'intero anno del 2022. Allora è questo che noi ci deve fare riflettere, che di fronte a questo dobbiamo creare una rete di invasi che ci permette di trattenere quell'acqua per ridurre l'impatto devastante di quando cade, che crea danni, crea morte, crea distruzione, per far fronte poi dei momenti dove ne abbiamo bisogno per cercare di mantenere sana quell'economia che dipende dall'acqua, che non è solo un'economia agricola, ma è innanzitutto la vita delle persone e anche un'economia industriale che necessita di avere a disposizione la giusta quantità di acqua insieme alla bellezza dei territori, che il nostro territorio è bello grazie alla presenza dell'acqua. E a suo avviso il decisore politico ha chiara il quadro della situazione al momento? Ma guardi, oggi il decisore politico credo che abbia interpretato nel modo più veloce possibile rispetto alle tematiche dei cambiamenti climatici, prima con il decreto siccità e oggi confermando la voglia di dare risposte veloci a un territorio così importante come quello dell'Emilia Romagna. Abbiamo bisogno di accelerare e nel decreto ce l'abbiamo. Accelerare significa sburocratizzare ed eliminare tutte quelle norme che evitano di fare l'opera pubblica nel Paese. Dobbiamo avere delle risorse le cercheremo, le abbiamo a disposizione dall'Europa, ma dobbiamo anche metterle come priorità all'interno del Paese, perché troppo spesso è stato visto gli investimenti sull'acqua e sul dissesto geologico come spesa pubblica del Paese. Io credo che questo noi dobbiamo invertire il concetto, non deve essere visto come un debito pubblico, ma deve essere visto come un investimento pubblico che crea valore aggiunto al nostro territorio. Allora, se riusciamo ad invertire questa cultura sull'investimento dell'acqua, molto probabilmente daremo delle risposte più veloci nelle tempistiche. È chiaro che dobbiamo anche avere la forza e il coraggio di dire che su alcune questioni non possiamo avere dei preconcetti o dobbiamo avere l'illusione, va bene, di cercare di lasciare tutto inalterato, perché tutto inalterato sicuramente non lo possiamo lasciare.